Yo, yo. Io sono Sommo, il nome che fa rumore, in tribal comando, il mio impero in cima, un fiore. Ogni villaggio che tocco diventa una roccaforte, le mie truppe avanzano, mentre il resto è solo core. Strategia in testa come un generale, faccio il gioco, non mi serve il caso, è tutto naturale. Risorse le raccolgo come il vento in un campo, ogni battaglia vinta è un passo verso il trono, alto e santo. Io sono Sommo, siedo sul mio trono, dominando il gioco lo so, sono il più buono. Ogni mossa è calcolata, nessuno mi fa paura. Tribal comando, la vittoria è la mia ossessione pura. Al mio fianco l'alleanza è forte, invincibile. Quando scendo in guerra l'intero mondo è visibile. Il mio nome è leggenda nelle terre di Tribal. I nemici tremano perché so come essere implacabile. Legno, argilla e ferro, tutto sotto il mio comando. Nel mio regno ogni villaggio è un sogno che sto creando. Le truppe sono pronte, la vittoria è in tasca. Le mura sono alte, la difesa è una maschera. Io sono Sommo, siedo sul mio trono, dominando il gioco lo so, sono il più buono. Ogni mossa è calcolata, nessuno mi fa paura. Tribal comando, la vittoria è la mia ossessione pura. Scrivimi, fammi vedere se hai la mente acuta. Se riesci a battermi, sarà una lotta cruda. Ma attenzione perché qui non c'è spazio per errori. È il re, gli altri sono solo signori. Io sono Sommo, siedo sul mio trono, dominando il gioco lo so, sono il più buono. Ogni mossa è calcolata, nessuno mi fa paura. In tribal comando, la vittoria è la mia ossessione pura. Scrivimi, fammi vedere se hai la mente acuta. Se riesci a battermi, sarà una lotta cruda. Ma attenzione perché qui non c'è spazio per errori. È il re, gli altri sono solo storie. Io sono Sommo, siedo sul mio trono, dominando il gioco lo so, sono il più buono. Ogni mossa è calcolata, nessuno mi fa paura. In tribal comando, la vittoria è la mia ossessione pura. Io sono Sommo, siedo sul mio trono, dominando il gioco lo so, sono il più buono. Ogni mossa è calcolata, nessuno mi fa paura. In tribal comando, la vittoria è la mia ossessione pura.